un'altra corrispondenza dal corteo. Ciao. Sì, ciao a tutte e a tutti. Senti, allora abbiamo raccontato un po' la composizione della piazza. In questo momento siete a Piazza Cavour, abbiamo anche dato aggiornamenti a via Cavour. A via Cavour. Abbiamo anche dato aggiornamenti sulla compagna che era stata fermata, ma immediatamente, insomma, restituita in qualche modo, insomma, al corteo. Tu invece raccontaci un po' come sta andando, come prosegue. Allora, sì, insomma, gli aggiornamenti già le dati, la compagna è stata identificata, evidentemente per i fatti di ieri, ma è stata rilassata, però questa è evidente che è una provocazione, perché non è possibile che in un corteo di così tante persone, un corteo così determinato, si fanno le cose del genere. Detto questo, sicuramente il corteo sta riuscendo, stiamo parlando di più di 30.000 persone in piazza, 30.000 persone che con determinazione stanno dicendo i punti qualificanti della campagna Mai con Salvini e del perché, ovviamente, questa piazza vuole rivendicare il diritto a manifestare e il diritto di dire che Salvini non è benvenuto a Roma. E quindi a mio avviso il corteo è un corteo molto colorato e determinato. In questo momento siamo quasi all'altezza di via dei Serpenti, si stanno susseguendo tanti interventi da camion, le associazioni antirazziste, i migranti e tanti compagni che hanno animato questo percorso. Gli obiettivi sono chiari, sono quelli di sicuramente contrastare a livello numerico la piazza di Salvini. A quanto si dicono, la piazza di Salvini è abbastanza scarna di gente, questo vuol dire che la Roma antifascista, la Roma antirazzista ha risposto molto bene. La chiamata tra l'altro in questo momento sta parlando di Stefano di Casapound dal palco. Ah, ok, perfetto. Quindi... Ok, quindi avete più informazioni di me su questo frangente. Però insomma, io personalmente sono molto contento di questo corteo, perché è evidente che la Roma antifascista, antirazzista non è andata a Piazza del Popolo. La Roma antifascista e antirazzista si trova in piazza con noi, dicendo a grandi voci che noi Salvini non lo vogliamo fuori, non lo vogliamo repiedi. E è ovvio che il corteo è vissuto come una tappa e come sicuramente con un momento da cui iniziare a spronare quel processo che Salvini sta portando e sta mettendo in campo su tutto il territorio nazionale. Uno degli applausi, perché sta intervenendo un migrante. Ci puoi far ascoltare, se hai modo, qualcosa dal camion? Se ci riuscite, perché insomma ci farebbe piacere sentire un po' di voci anche Allora, proviamo a fare una cosa, vi posso proporre che proviamo a connettere un telefono dal camion e quindi a sentire un intervento. Sì, però mettere anche davanti ai... Per un attimo il tempo di organizzare, insomma, a livello logistico e tecnico. Ok, quindi se ti richiamate da 5 minuti, sì. Ovvio, gli interventi che li facciamo sentire. È un corteo composito, stanno intervenendo tantissime persone. Esatto. Questo significa che la campagna Mai con Salvini è riuscita a uscire fuori e a portare con l'eterogeneità che è sicuramente sa cosa vuole, non Salvini a Roma. Assolutamente. Quindi se vuoi ci risentiamo tra un po', io intanto verifico la possibilità di connettere un telefono al camion, va bene? Perfetto, ok. Grazie, ciao, a presto, ciao. Un abbraccio a voi, buon corteo, ciao. Sì, parlava di Stefano poco fa, finito l'intervento, seguito dai guardaspalle, baci e abbracci con Salvini, adesso sta parlando Meloni. Io questa cosa del vicepresidente di Casapound che parla da un palco in Piazza del